Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Quando si verifica un'emergenza, come per esempio un'eruzione vulcanica, piuttosto che una fuoriuscita di sostanze tossiche da un impianto industriale, il monitoraggio ambientale diventa una priorità assoluta, dato che permette di capire cosa sta succedendo sul campo e di prendere decisioni tempestive. Pensate al caso di una nube tossica che si sposta con il vento. Difficilmente però sul luogo del disastro, nel momento del bisogno, si può far conto su una rete di sensori ambientali capillare e in perfetto stato di funzionamento. Così, per rispondere a questa esigenza, è nato il progetto SMOG, Sistema Multiparametrico di Monitoraggio Geofisico e Ambientale per Applicazioni di Protezione Civile. Il progetto è stato condotto dall'Osservatorio Etneo dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con alcune società di ingegneria. E per parlarcene c'è il coordinatore del progetto e ricercatore dell'INGV, Luigi Lodato. Buonasera, Lodato, benvenuto. Buonasera. Allora, senta, ci descriva questo progetto SMOG, soprattutto l'oggetto a cui è finalizzato appunto il progetto. Sì, l'obiettivo principale era quello di progettare e realizzare una stazione multiparametrica portatile. Questo cosa comporta? Il fatto che sia portatile è una stazione di dimensioni non molto grandi che può essere facilmente trasportata. Sì. Una di quelle centraline per la rilevazione dei dati ambientali, immagino sia simile a quelle che possiamo incrociare a volte anche per strada, no? In città. Sì, una di quelle capannine, diciamo. Sì, esattamente. Quelle sono fisse e questa è portatile. L'idea è metterne tante e quindi puoi creare una rete di monitoraggio proprio per la facilità di trasporto. Di trasporto, e anche perché appunto poi queste centraline comunicano wireless, comunicano fra loro, quindi uno mette giù questi oggetti e attiva una rete di sensori ambientali. Ecco, per curiosità, quanto tempo ci vuole? Immaginate che ci sia un'emergenza, quanto tempo ci vuole per reagire, arrivare, piazzare queste centraline e attivare la rete? Ma nel giro di 24 ore puoi fare una buona rete di monitoraggio, poi dipende dal numero di stazioni che si vanno a mettere. Certo, dipenderà poi da tante variabili. Senta, che tipo di dati ambientali è in grado di registrare questa vostra centralina? La misura dei parametri in maniera automatica, chiaramente, sono sensori termici, anche sismici o chimici fisici, e praticamente puoi misurare emissioni diffuse di gas, okay, sia nei suoli o in aree come un petrolchimico o aree dove ci possono essere delle fughe di gas che possono essere pericolose praticamente per gli addetti ai lavori. E poi in realtà questa centralina, insomma, gli si può attaccare, mi diceva prima, un pochettino di tutto. Avete curato molto l'aspetto economico, cioè queste stazioni costano poco, era una delle richieste anche che vi facevano a livello di progetto europeo. Sì, questo sistema è basato sull'utilizzo di sistemi a basso costo e doveva essere semplice e doveva avere quei requisiti necessari in modo che si poteva replicare la stazione da un punto di vista anche industriale per le aziende, in modo da poterlo poi diffondere. Ed è open source, vero, il vostro progetto? Sì, tutto è open source, dai software a tutto il chiaramente il materiale che c'è all'interno della stazione, tranne alcune cose che sono già in commercio. Che sono già in commercio, certo, ma è il progetto che è open source, cioè chiunque può replicare, partire da questo vostro lavoro, poi ci attaccherà quello che vuole e così via. Esattamente. Senta, perché nella parte di disseminazione noi metteremo a disposizione online tutto lo studio di base che è stato fatto. Ok, perfetto, ok, la tipica appunto logica dell'open source. Senta, le chiedo un'ultima cosa, vorrei sapere se avete già utilizzato questi sistemi sul campo e dove prevedete comunque di utilizzarli in futuro. Noi l'abbiamo utilizzato sui vulcani, abbiamo utilizzato sull'isola di Vulcano, che era specialmente per la parte dei gas e delle concentrazioni di SO2 che si possono trovare sui vulcani, e l'abbiamo anche applicato all'estero sul vulcano Teide, perché il governo spagnolo alle Canarie, sì, perché il governo spagnolo era interessato a questo prototipo. Va bene, grazie Luigi Lodato. Buonasera a tutti. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.